FM. Quando sarai nel posto giusto con la gente giusta, dividetevi qui. E potrebbe essere questo il posto giusto. Di nostalgia vintage con questa sigla, la prima sigla di Easy Rider rispolverata per l'occasione, la voce di Mox ai microfoni di Rock FM. Oggi è mercoledì 14 maggio, reduci da una puntata molto simpatica e anche oserei definire storica, visto la presenza di un illustre ospite, quello di ieri sera, ossia Beppe Riva, e che vi ringrazia personalmente, me l'ha detto, riferisci quanto sia stato felice di essere in radio con te per anche tutto il riscontro positivo che voi gli avete giustamente tributato. Allora, questo è Easy Rider, per chi non lo sapesse, la radio è sempre Rock FM finché dura, la voce è quella di Mox, ve l'ho già detto, partiamo con il viaggio da New York. Oggi voglio celebrare, essendo il 14 maggio e tra l'altro avendo avuto ospite Beppe Riva ieri sera, un evento che voglio ricordare ad alcuni di voi. Il 14 maggio del 1987, quindi 21 anni fa precisamente, proprio a quest'ora salivano sul palco per la prima volta in Italia i Manowar con la loro unica data italiana, e quindi li ricordo anche perché ieri la scaletta prevista per l'incontro con Beppe Riva è stata un po' tagliata per motivi di tempo e sarebbero stati previsti anche i Manowar inclusi in una lista di sue preferenze, oltre che scoperte, è il caso di dire, per quanto riguarda il territorio italiano. E allora fu proprio Battle Hymns il loro disco d'esordio, si va indietro nel 1982. Io ho scelto un brano che secondo me è molto esemplificativo del suono dei Manowar, che già si costituiva e diventava differente da quello degli altri gruppi metal. Soprattutto vantavano quello che a mio avviso è il più grande cantante della storia dell'heavy metal, e anche, ci butterei dentro, l'hard rock, sicuramente uno dei cinque migliori della storia, E il brano che sto per farvi sentire include anche un'altra particolarità, una voce strepitosa, cioè quella di Orson Welles, che fa un piccolo intervento recitato all'interno del brano. Allora, il brano, non vi ho detto ancora il titolo, si intitola Dark Avenger, 1982, dall'album Inni di Battaglia, Battle Hymns per i Manowar. I Manowar in tutta la loro primordiale irruenza, questo era Dark Avenger dal primo album, quindi erano ancora mediamente giovani, anche se ricordiamo che Ross The Boss, insomma, proveniva da una delle formazioni, anzi da un paio di formazioni newyorkesi degli anni 70, prima i Dictators e poi gli Shaking Street, band estemporanea e meteorica, direi, no, non è l'aggettivo giusto, però insomma un momento non glorioso prima dei Manowar per Ross The Boss, che poi insomma è decollato letteralmente con questa formazione che abbiamo ricordato oggi non a caso, visto che il 14 maggio dell'87 per la prima volta suonarono in Italia, qui proprio a Milano. Infatti ho un ricordo di quel concerto mitico con i ragazzi assolutamente in forma. Così come in forma siete voi, che potete iniziare tranquillamente a scrivere ad Easy Rider al 335-100-7777, piuttosto che alla casella di posta elettronica mox@rockfamily.it. Ormai dico anch'io solo questa, come fanno i miei colleghi, perché quell'altra la conoscete bene e se volete usarla fatelo pure. mox@radiorockfm.com è sempre valida per la diretta, non ci sono problemi nel merito. Allora, io proseguirei con una veste un po' cinematografica, visto che siamo partiti con i Manowar e quindi all'insegna del metallo pesante, a parte la gloriosa sigla degli Shocking Blue del 69, io proseguirei con un film bellissimo dedicato alla vita di Gesù Cristo, quindi L'ultima tentazione di Cristo. Questo perché? Perché la colonna sonora è una delle più belle colonne sonore mai realizzate, e si tratta di Peter Gabriel, quindi Of This Hope, dalla colonna sonora appunto di The Last Temptation of Christ, è il brano che vado a riproporvi, un po' come fosse un best of. We'll be right back. questa è pura magia, la magia di Peter Gabriel con le note fantastiche che sottolineano un film evocativo, ecco, è il caso di rispolverare anche questo aggettivo per la musica di Peter Gabriel che così dà il via anche alla sua prestigiosissima etichetta, la Real World, con la quale riscopre e dà luce, dà vita a tutta una serie di bagagli sonori interessanti provenienti da ogni parte del mondo, un po' come Easy Rider, però insomma, mentre Easy Rider usa un prodotto già confezionato, Peter Gabriel va e lo confeziona, dando vita proprio a una serie di dischi di musica etnica interessantissimi. Quindi il primo tassello della Real World è proprio questa colonna sonora del film di Scorsese, quindi Passion, marchiato proprio con Real World CD 1, numero di catalogo 1. Va bene, detto questo, continuiamo a sognare, continuiamo a viaggiare, un po' di dance floor potrei suggerire con il prossimo pezzo. Io vi programmo un artista che con la sua band è totalmente inconsueto per la programmazione di una radio come Rock FM, però vado a riscoprire, a rispolverare il primo album di questo nome che fra poco vi dirò, quindi non preoccupatevi, ci saranno anche altre curiosità all'interno della serata odierna di Easy Rider. L'artista in questione si chiama Jamiroquai e il primo disco esce nel 93 e lui è un erede, per non dire un clone, delle sonorità soul di Stevie Wonder, quindi in quel momento si rifà esplicitamente a tutto quello che Stevie Wonder aveva già detto, scritto e suonato. Un esempio è anche questo pezzo, secondo me molto bello, molto soul, si intitola Hooked Up e niente, ce lo ascoltiamo, anche se questa è Rock FM. We'll be right back. groove certamente irresistibile quello per Jamiroquai, dall'album Emergency on Planet Earth, quindi un'emergenza sul pianeta Terra, una sorta di denuncia ecologica, già nel 93, voglio dire, non era sicuramente avanti con i tempi, visto che il problema ecologico risale a qualche decennio prima sicuramente. In ogni caso un ottimo disco di funky soul e poi un'esplosione a livello planetario per la fama di questo progetto, che insomma probabilmente poco rock ma sicuramente molto, molto caldo, molto sanguigno per certi aspetti e ogni tanto anche dignitoso. Ho un buon ricordo se non altro di questo Emergency on Planet Earth del 93 per Jamiroquai, tra l'altro con grande set oltre che di fiati anche di percussioni che richiamava un po' anche il Santana Sound. Quello che mi piaceva di questa band era il legame, il richiamo alle radici degli anni 70 e questo è inconfutabile. Il prossimo brano invece è di matrice diversa, per quanto sia una sorta di novità, quindi un gruppo italiano che spesso e volentieri abbiamo incontrato ad Easy Rider, un gruppo in attuale, quindi in attività negli anni 2000 e che però ha gli strumenti vintage e suona esattamente come si suonava nei primi anni 70, però in questo caso l'hard rock e il progressivo. Si va nella città di Piacenza, quindi alcuni di voi più attenti avranno capito che si parla di Wicked Minds, quindi questo quintetto vintage molto ben preparato. I loro dischi sono fantastici perché sono registrati molto bene e suonati da ragazzi che hanno una forte passione per questo rock degli anni 70 e lo sanno sicuramente trasmettere. Allora io dall'album Witchflower vi ripropongo questa Sad Woman, donna triste, che ripeto risale al 2006, quindi è allo stato attuale delle cose ancora l'ultimo album in studio per i Wicked Minds, che ascoltiamo subito.

Dopo un'incursione in Italia a Piacenza con l'ottimo brano Sad Woman dei piacentini, appunto Wicked Minds, ecco, tornati in auge anche i Sister of Mercy con il loro album d'esordio, da cui abbiamo riascoltato questa Marian. Il titolo dell'album era First and Last and Always, e allora io per l'occasione come sottofondo ho messo un groove, un tema dei Type O Negative, che in qualche modo hanno preso anche loro dal punto di vista vocale qualcosa dai Sister of Mercy, e infatti si è sentita l'estrema la vocalità estremamente bassa del cantante dei Sister of Mercy già all'epoca, con questo ottimo esempio. Va bene, direi che l'orario notturno è molto più consono, cosa che abbiamo già detto ma è il caso di ribadire, per la musica che passa a Easy Rider. Io vi chiedo scusa per avervi trascurato fino adesso leggerò al volo una carrellata immensa di SMS che arrivano al 335-100-7777. Il primo che saluto in ordine cronologico è l'amico Ciro48, che dice: ieri ho registrato una C120 che conserverò con la stessa cura che ho dei 674 vinili. Grande Ciro, grazie mille. Poi un saluto al Fanello, sempre presente, un saluto a Sissi, che dice, mi chiede se posso fare gli auguri al suo uomo Pietro per i suoi 51 anni, di cui 29 vissuti insieme. Grazie, certo che sì Sissi, sono assolutamente contento di augurare il meglio a qualcuno che ha l'ascolto di Easy Rider, quindi buon compleanno caro Pietro e complimenti per i vostri 29 anni di convivenza, ecco, diciamo così, quindi complimenti veramente. Deborah Da Lucca, che dice: prima ti ascoltavo in classe, ora invece mentre stendo i panni, l'importante è esserci. Brutus non è felice di ascoltare i Manowar, e Andrea invece sì, dicendo, specificando che nel 97 sono tornati. Io vorrei sottolineare appunto che il mondo è bello perché è vario, infatti Andre, dopo il messaggio di Brutus, invece mi scrive Andre, dice: grazie per la grandissima puntata di ieri sera. E a proposito di Manowar, cosa ne pensi di Into Glory Ride? Per me è semplicemente mostruoso. Ma guarda, io ti dirò una cosa, Into Glory Ride e Manowar non solo è il, a mio avviso, il miglior disco di Manowar, ma è proprio uno dei miei dischi preferiti, diciamo nei primi 100, sappiate che, ecco, la conoscenza di numerica di dischi mia è abbastanza elevata, però devo dire che Into Glory Ride è veramente uno dei dischi più belli della storia dell'heavy metal, quindi è sicuramente il loro capolavoro. Roberta invece dice una bella frase che non avevo mai letto e mi fa sorridere: Cristadoro for President. Questo per l'ascolto ovviamente di Peter Gabriel. Nico da Firenze specifica che la musica di Passion di Peter Gabriel è stata utilizzata anche per coreografie bellissime dei Momix, e io, caro Nico da Firenze, ti dico che li ho visti e concordo con te, è uno spettacolo veramente imperdibile ed emozionante vedere i corpi dei Momix che si muovono a ritmo di Passion di Peter Gabriel, è una cosa di una molto suggestiva, di una suggestione unica. Giacomo invece, parlando di Van der Graaf Generator che abbiamo ascoltato ieri, menziona Trisector e dice che è un disco eccezionale. Io non lo conosco, per cui ti ringrazio della tua menzione. Un saluto a Bici, che domani va al teatro Leonardo da Vinci, nel quale suonerà Tony Levin insieme ai California Guitar Trio, mi piace ricordare. Venerdì mi farai una piccola recensione, grazie mille. Io non sono sicuro di esserci domani. Mi piace però anche ricordare che fa parte della rassegna Suoni e Visioni, qui presentata insieme a uno degli ideatori, quindi a Enzo Gentile. Un saluto e un abbraccio anche a Veronica da Imola, che è stata felice anche lei della puntata di ieri. E infine France da Genova, che mi chiede se ho mai passato i Morphine, e la risposta è ovviamente sì. Però il prossimo pezzo invece appartiene al repertorio dei Vanilla Fudge. Io voglio ringraziare ancora il mio amico Filippo della redazione per avermi dato l'opportunità di intervistare non solo Beppe Riva ieri, ma anche Carmine Appice, ossia il batterista storico dei Vanilla Fudge. Li ritroviamo con un disco del 2006, Out Through the Indoor. Ovviamente dal titolo si evince che i Led Zeppelin sono l'unico tributo di tutto l'album. E allora stamattina alla Claudia vi ho fatto ascoltare Dazed and Confused, io vi faccio ascoltare la, il remake dei Vanilla Fudge. intontito e confuso il titolo di questa pietra miliare nella storia del rock, rivisitata e corretta dai Vanilla Fudge nel 2006, quindi ragazzi che hanno iniziato a suonare e hanno avuto il giusto successo negli anni 60, anche in Italia, ricordiamolo, e poi sono tornati 40 anni dopo, ancora direi dichiaratamente, visibilmente in forma, visto anche il risultato sonoro di questo ottimo album, Out Through the Indoor, un tributo ai loro amici Led Zeppelin, che hanno anche in qualche modo ispirato, almeno dal punto di vista batteristico, Carmine Appice, quindi Carmine Appice ha sicuramente ispirato John Bonham, così come Ian Paice, e chi si ricorda l'intervista effettuata dal sottoscritto l'anno scorso sa che queste cose sono state dette e corrispondono certamente a realtà. Va bene, allora i saluti vanno ancora all'amico Cattivic, che manda saluti da Cosenza, alla mail mox@radiorockfm.com. Poi voglio salutare, come radio di servizio dire per Roberta di Lugo, quindi si parla di Romagna, c'è un messaggio urgente per te al Dischi Equinox, negozio di via Mentana al numero 27, proprio a Lugo. Questo è l'amico che si firma Progrock, quindi io spero che Roberta sia in ascolto, probabilmente sì, perché insomma Rock FM, in questo caso Easy Rider, è un crocevia di incontri tra persone sapienti e sagge. Allora, il prossimo pezzo è un pezzo della serie Vi stupirò con effetti speciali, visto che appartiene al repertorio di un artista che nulla ha a che vedere col mondo del rock, ma è in sé, insomma, un personaggio degli anni 70, degli anni 80, un personaggio televisivo, ma mi piace ricordarlo più che altro per un suo aspetto artistico rilevante, ossia è stata una modella, niente poco di meno che di Salvador Dalì, uno dei più grandi pittori della storia della pittura. E allora si parla di Amanda Lear. Amanda Lear pubblica degli album negli anni 70, il secondo dei quali si intitola Sweet Revenge, Dolce Vendetta. È un album così un po' concept, ma contiene anche un brano inusuale per il suo repertorio, come questo. Vi ricordo che siamo come registrazione alla fine del 77, infatti il disco esce nel febbraio del 78 ed è stato registrato a Monaco, quindi con i suoni dell'epoca, però i migliori che potevano esserci. Io abbandono ovviamente tutto il repertorio dance di Amanda Lear e vi faccio ascoltare questo brano che si intitola The Stud e ha dei richiami, secondo me, vagamente hard rockeggianti. Se non ci credete, eccolo. says that. Incredibile a dirsi, questa era la voce di Amanda Lear, tutto sommato riconoscibile, ma irriconoscibile direi la parte relativa agli strumenti, che era, come vi avevo annunciato, un pezzo dichiaratamente hard rock. Era prematuro parlare di heavy metal, per quanto di questa cosa abbiamo disquisito a lungo ieri insieme a Beppe Riva, però insomma è curioso ritrovare un brano di fine 77 per un'artista così eclettica, che insomma in un ambito assolutamente dance, perché vi garantisco che il resto dell'album è totalmente di matrice dance, anche se molto avanti, molto elettronica, ma questo pezzo insomma ha una partitura inusuale. E mi fa piacere ricevere messaggi come quello di Anton, che dice: grande con Amanda, vista dal vivo molto brava, amica di David Bowie e Jagger alla fine dei 60. E poi aggiunge: che casini cercare di ascoltarti a quest'ora. Mi dispiace caro Anton, ma questo è quello che ci tocca fino al 31 maggio. Poi, sapevo di Amanda Lear come pittrice e cantante, ma non avevo mai sentito nulla. Volevo farti sapere in confidenza che il mio primo luminare maestro sei stato proprio tu. Bene, io ringrazio l'amica Veronica e ringrazio anche il Fungo, visto che so che sono amici. Dice: ieri sera sono stato costretto a tradirti con i Kiss, purtroppo mi hanno detto che mi sono perso una gran puntata. Beh, caro Fungo, io spero che tu ti sia divertito anche allo show dei Kiss, poi per la puntata si fa sempre in tempo a recuperare. Allora io vorrei continuare un po' con l'autocelebrazione. Dopo Amanda Lear vi faccio sentire qualcosa di un po' più duro, ovviamente, e vi passo un brano dal disco di Furious Party. Quindi andiamo indietro nel 2003, unico album per questa formazione con la voce straordinaria di Holiday, Fire, prima degli Shandon, della quale ho fatto, insomma, formazione della quale ho avuto la fortuna di far parte anch'io. Il pezzo è I'm Losing, sostanzialmente richiama il fatto di essere o non essere perdenti, ma musicalmente è un pezzo, è il pezzo più lento dell'album. Ve lo faccio ascoltare. E così a sfumare fino all'arrivo della voce del DJ Ariele, che quasi quasi vi faccio sentire. Hey, you're listening to Rock FM Station, and we're gonna feed your ear with the Furious Party. Ecco, questa era un finale, un'idea copiata ai Refused, che alla fine del primo pezzo del loro album The Shape of a Punk to Come usano proprio un DJ radiofonico che peraltro parla in italiano. Allora io ho pensato, così ispirato da quell'album, di chiedere a DJ Ariele di prestarci la sua voce per un outro barra intro del pezzo successivo, e questa è la storia del disco dei Furious Party, Hypocrisy Showroom, uscito nel 2003 e forse ancora oggi reperibile, chi lo sa. Ha avuto vari momenti di distribuzione, insomma si è perso un po' nel caos degli ultimi anni di discografia, che sono stati particolarmente controversi. Un saluto a questo punto all'amico Frinz78 dalla Romagna, e dice: Amanda, una rocker, ne sai una più del diavolo. Ma guarda, sono queste scoperte che si fanno ascoltando i dischi che ritrovi nel tuo archivio, e ogni tanto dici va bene, è una bella idea. D'altronde abbiamo ascoltato Donna Summer 15 giorni fa con un brano sempre di quel periodo del 76 in cui il riff richiamava in maniera molto palese il riff di Breaking the Law dei Judas Priest, ovviamente 4 anni prima, per cui ci veniva quasi da pensare che i Judas Priest si fossero un po' ispirati a quel riff per la stesura della celebre Breaking the Law. Va bene, allora abbandoniamo anche Furious Party e ora vi faccio sentire un classico dei classici. Vi siete abituati nell'ultimo anno a ascoltare una delle sigle importanti, la prima sigla importante di Easy Rider era il pezzo I Want to Take You Higher di Sly and the Family Stone, però veniva puntualmente troncato dopo 2 misure per dare inizio al programma. Io, siccome ci tengo a questo pezzo, ve lo farei sentire per intero, non è lunghissimo, per carità, però ve lo farei sentire rispettandolo e senza il taglio che avviene puntualmente quando io entro a parlare. E allora, dal 1969 questo è un vero hit, è un hit transgenerazionale, infatti è stato ripreso più volte per svariate colonne sonore di film. E allora ve la faccio ascoltare. I Want to Take You Higher, questi sono Sly and the Family Stone. Amici all'ascolto, in stereofonia dalle onde di Rock FM, Sly and the Family Stone, ma ve lo immaginate il festival di Woodstock con tutto quel popò di folla, quelle centinaia di migliaia di persone che ballavano al ritmo irresistibile di un brano come questo, uno dei groove più immortali della storia, I Want to Take You Higher, ritrovato e scelto non a caso come sigla di un programma che si volge così spesso e volentieri al passato e alle glorie della nostra musica preferita. Allora, altri saluti vanno ad altri amici che continuano a scrivere, dopo riprendiamo in mano i vostri messaggi, ma io voglio proseguire con la musica e rimanere grosso modo in quel mood. Allora, abbiamo detto che qualche notte fa è andato in onda nuovamente il film Easy Rider, che appunto ho rivisto a distanza di tanto tempo. Suona un po' datato, mi verrebbe da dire, ma non è un disco, insomma, suona come contenuti, soprattutto nelle pessime traduzioni italiane, che in realtà sono anche veritiere, ma secondo me perde un po' nella traduzione questo film. È sicuramente più credibile e anche più godibile se visto in lingua originale. Voglio però riprendere in mano la colonna sonora di questo film perché è veramente fondamentale, è un piccolo capolavoro, una compilation di brani uno più bello dell'altro, non ultimo quello dei Byrds, che nell'America degli anni 60 insomma erano veramente uno dei gruppi di punta in virtù della loro estrema versatilità e nello scrivere canzoni, insomma una melodia veramente, un'attitudine alla melodia impareggiabile. I Wasn't Born to Follow è una canzone che sottolinea dei momenti di viaggio rendendo il film ancora più efficace, anzi sicuramente molto più efficace. Allora, dalla colonna sonora di Easy Rider ascoltiamoci questo piccolo, breve, intenso frammento marchiato Birds. I'd rather go and journey where the diamond crescent's glowing, and run across the valley beneath the sacred mountain, and wander through the forest where the trees have leaves of prism and break the light in colors that no one knows the names of. And when it's time beside a legendary fountain, till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the chasm where the rivers of our vision flow into one another. White cascading waters, she may beg, she may plead, she may argue with her logic and mention all the things I lose that really have no value. In the end, she will surely know I wasn't born to follow. I primi ad aver fatto incontrare due linguaggi, quello del country più tipico dei Monti Appalachi e quello della psichedelia, quindi grandissimi Birds, lo abbiamo detto più volte, I wasn't born to follow, non sono nato per seguire, e questo indica secondo me un po' lo spirito del film, cioè l'apoteosi di una grande individualità affermata proprio con le figure simboliche di questi due personaggi che se la viaggiano in motocicletta. Io proseguirei anche se i telefoni suonano, proseguirei con la musica, con un brano radicalmente diverso. Siamo ancora nello stesso periodo, abbandoniamo l'America, andiamo in Inghilterra, le cose si fanno più serie, più pesanti. perché voglio riscomodare ancora una volta i Black Sabbath con il loro best seller assoluto della loro intera discografia, ossia il secondo album, Paranoid, 1970. Si chiude con Fairies Wear Boots ed è il brano che ho scelto oggi per voi dal repertorio Black Sabbath. Ovviamente la voce è quella di Ozzy Osbourne e il periodo era veramente glorioso per loro, infatti svariati i milioni di copie vendute proprio di questo disco che si intitolava Paranoid. FM Spot. Whitesnake, Good to be Bad, il nuovo disco in studio dei Whitesnake di David Coverdale in 10 anni. Whitesnake, la più grandiosa hard rock band di tutti i tempi. Nei migliori negozi, distribuito da Audioglobe. State ascoltando Easy Rider. Easy Rider è una trasmissione che si occupa, come da titolo, anche di cinema e spesso e volentieri prende in considerazione colonne sonore. Questo in realtà era un brano dei Rolling Stones, Moonlight Mile, il brano conclusivo del loro album del 71, Sticky Fingers, l'album celebre anche in virtù della sua copertina firmata Andy Warhol, in cui un paio di jeans indossati da un uomo ovviamente hanno una cerniera vera e propria che si alza e si abbassa. Io ho anche la fortuna di possedere una buona ristampa di questo disco che riporta appunto questa interessante copertina dal punto di vista grafico, in quanto densa di innovazione. D'altronde la creatività negli anni 70, si sa, era assolutamente ai massimi livelli e quindi la collezione di vinili aveva un senso ulteriore, oltre a quello di raccogliere grande musica, grandi suoni e ottime vibrazioni, anche una collezione dal punto di vista estetico, quindi l'arte grafica, l'arte visiva era fondamentale. Questa è una trasmissione vintage, una trasmissione che fa largo uso, abbondante uso di vinili, esattamente come le radio degli anni 70, e questa cosa ha fatto sì che molti di voi apprezzassero questa attitudine. Anche il prossimo pezzo, sempre su vinile, ci fa portare un po' la memoria indietro. Ma volevo concludere il discorso relativo a Moonlight Mile, la canzone dei Rolling Stones, dal titolo anche a un film poi degli anni 2000, che è ambientato però all'inizio degli anni 70. In italiano il film è stato chiamato Moonlight Mile, voglia di ricominciare. Attori importanti come Susan Sarandon o il mitico, scusate non mi viene il nome, Dustin Hoffman, ecco. E insomma, una colonna sonora fantastica che peraltro include anche I Want to Take You Higher, a proposito di Sly and the Family Stone. Allora abbandoniamo questa ottima ballad dei Rolling Stones, del 71, e andiamo nel 1968 in America con una band tra i primi ragazzi, uno dei primi trio a suonare veramente duro e anche forse un po' maldestro. Per questo all'epoca non venivano molto apprezzati band come i Grand Funk Railroad o anche come questi Blue Cheer. I Blue Cheer li ritroviamo con una versione di un classico di Eddie Cochran, l'artista che ha fatto quel pezzo che anche la Rock FM All Stars Band usa a suonare dal vivo con tanto di tuffo dal palco del DJ Ariele. Il pezzo è Summertime Blues, questa è la versione del 68 dei Blue Cheer. Summertime blue. summertime blues. Whoa! Trio tanto sgangherato quanto sincero, sanguigno ed onesto, quello dei Blue Cheer, ritrovati con un disco di ben 40 anni fa, Vincibus Eruptum, che si apriva proprio con questa bella versione massiccia e distorta di un classico di Eddie Cochran, quindi Summertime Blues, anche più bella questa versione rispetto a quella della Rock FM All Stars Band. Nelle nostre mani un po' tutto si rovina, quantomeno si trasforma, ecco, questo è il caso di dirlo. Va bene, siamo quasi agli sgoccioli, tra un po' ci sarà nuovamente lo spazio, la replica del programma di Maurizio Faulisi insieme al Matthews, ma ve lo dico proprio perché il suono di questi Blue Cheer era dichiaratamente garage e quindi sicuramente non avrebbe stonato all'interno della programmazione di Garageland. Io approfitto per salutare gli altri amici che scrivono al 335-100-7777, ringrazio Camarilla Brilla, immagino da Genova se ricordo bene, per le sue belle parole, infatti dice, esprime gratitudine per questa musica che sempre arriva dritta all'anima. E poi le è piaciuto il mio messaggio di continua ricerca e soprattutto di essere sempre curiosi e aperti. Questo messaggio rimarrà in tutti noi ben oltre il 31 maggio. Io sono cresciuta con Rock FM e anche se non ti ho mai incontrato, ti sento vicino e la musica che passa da queste splendide frequenze non tramonterà mai. Bene, queste sono parole giuste, corrette e sicuramente piacevoli, ed è vero che comunque l'occhio, anzi l'orecchio di riguardo è proprio sulla musica che per definizione è intramontabile. Non c'è età per la musica buona, la musica che scade vuol dire che non è buona. Un saluto a il Tanca da Pistoia, a meno che non si tratti del Pistola, no, ma non credo, qua ciao dal Tanca Pistoia, e ascoltando i Black Sabbath dice questo è un vero e proprio massaggio chitarroso. Un saluto all'amico Daniele da Milano che fa i complimenti per la puntata, e poi Mauro da Pordenone mi chiede se è una possibilità remota quella di risentire la Rock Family in blocco su un'altra radio. È una possibilità remota, sì, direi di sì, abbastanza improbabile, cioè quantomeno in blocco. È difficile che tutto il cast riesca ad essere ancora unito sotto un altro marchio, ci vorrebbe un vero e proprio miracolo. È quello che stiamo cercando probabilmente di sperare, forse, no? Noi preghiamo per questa cosa, però in realtà la concretizzazione poi è un altro paio di maniche. Mi chiede un altro amico cosa penso delle copertine dei Molly Hatchet, visto che li ha conosciuti per quelle. Beh, sono copertine che rievocano questo immaginario da guerra di altri tempi, secondo me poi anche ricalcate da una certa cultura heavy metal degli anni Ottanta. È vero che i Molly Hatchet iniziano alla fine degli anni 70, il suono è decisamente meno violento rispetto all'heavy metal, è molto più radicato nella tradizione americana, infatti si parla di Southern Rock alla stessa stregua di bands come Outlaws, come ovviamente Allman Brothers Band, anche se un pelino più sanguigni, ecco. Ma queste copertine non sono sicuramente tra le mie preferite, ho più inclinazione verso i colori della psichedelia e i tratti della psichedelia. E a questo proposito adesso vi trasferirei in Norvegia. Direi che questo brano che vi ho fatto già ascoltare varie volte in fascia diurna ha la sua perfetta collocazione in fascia notturna. E se non ci credete, ascoltateli. Sestetto norvegese, The Third and the Mortal, questo è un album degli anni 90 che si intitola Painting on Glass, quindi dipingendo sul vetro, dal quale vi faccio ascoltare con una buona voce femminile Persistent and Fleeting. The Third and the Mortal, ossia il terzo e il mortale, e questo è il nome di questo sestetto norvegese che abbiamo ritrovato con Persistent and Fleeting dall'album Painting on Glass. Siamo nel 98 e insomma una formazione sicuramente misconosciuta dalle nostre parti, ma a me ricordavano molto la versione rock dei tanto amati australiani Dead Can Dance, per cui ho voluto riproporveli. Allora un saluto anche ad altre persone che fanno considerazioni giuste e corrette, come l'amico Man on the Moon che al 335-100-7777 scrive: dopo tutti questi messaggi è innegabile che uno dei più grossi meriti di Rock FM è quello di essere riuscita ad avere ascoltatori come questi. Effettivamente sì, ogni tanto c'è qualche collega che dice ognuno ha gli ascoltatori che si merita, e oggettivamente se voi siete così in gamba, per dirlo in maniera facile, insomma, se siete così profondi, così appassionati e così saggi e intelligenti, speriamo insomma di meritarcelo in qualche maniera. Va bene, poi arrivano altri apprezzamenti per l'ascolto di questa song norvegese che, ripeto, è perfetta per l'orario. Un po' meno perfetto per l'orario è il brano che io voglio sfruttare come chiusura di questo, di questa puntata di Easy Rider, raccomandandovi di essere sintonizzati per l'ascolto di Easy Rider domani sera, che ci sarà un qualcosa di veramente speciale. Mi riferisco a un brano che ci tengo molto a farvi sentire, e soprattutto venerdì, che avrò ospiti gli amici, quelli che hanno fatto questo programma insieme a me, diciamo almeno nell'ultimo anno, e quindi sarà una rimpatriata in famiglia e ci saranno delle cose nuove, delle cose inedite e delle curiosità. Allora vi parlo dell'ultimo brano. L'ultimo brano si intitola God Player, appartiene al repertorio di un gruppo di New York, un quartetto musicalmente molto violento, Brutal Truth, quindi una verità brutale, questo è il nome della band. Io ho scelto un brano mediamente soft per quanto riguarda il loro repertorio. L'album è il secondo, Need to Control, del 94. Questa need to control ovviamente significa bisogno, necessità di controllo, e i Brutal Truth sicuramente non ne hanno. Allora, God Player, questi sono i Brutal Truth. terrei molto a far notare che nel marasma del suono finale e anche in quello iniziale c'è un didgeridoo. Non so se riuscite a coglierlo, ma a proposito di sonorità etniche, ecco come i Brutal Truth, una delle grind band newyorkesi più potenti e corrosive degli anni 90, infatti vi ripeto, il secondo album dei Brutal Truth risale al 94, Need to Control, insomma riescono anche a fare questa sapiente commistione con un didgeridoo, che è quello strumento a fiato degli aborigeni che si suona, insomma, un pezzo di legno, una lunga canna di legno nella quale si fanno vibrare le labbra all'interno e viene fuori un suono molto molto curioso e suggestivo. Allora, io sono ai saluti, vi lascio nelle mani del Faulisi, vi raccomando ancora una volta di essere sintonizzati domani, dopodomani, ma insomma da qui fino al 31 maggio cercate di esserci, perché ci saranno sicuramente le ultime sorprese, i saluti di alcuni ospiti che interverranno ancora in questa trasmissione. L'ultimo mio saluto va ad Antlon, che mi scrive al 335-100-7777, felice di aver riascoltato i Brutal Truth. Da parte mia è tutto, è tempo di ascoltare la replica di Garageland. Ripeto, l'appuntamento è per domani, io vi voglio bene come sempre e vi lascio con il mio più caldo e notturno abbraccio circolare. È che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire, proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura. Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate. Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.